Il XXI secolo è nato all'insegna del fervore religioso nel voler trovare un punto di incontro tra le maggiori religioni, partendo dal presupposto che tutti crediamo nello stesso Dio. Anche se questa è una grande menzogna risaputa dalla maggioranza, le persone sembrano compiacersi al pensiero che ci sia un solo Dio e, irretiti da questa chimera, cercano il colloquio interreligioso. Che ci sia un solo Dio non è una novità, perché da sempre il Dio degli ebrei e dei cristiani ha dichiarato di essere l'unico Dio. La novità sta che il Dio unico del quale parlano le persone non è l'unico Dio al quale credono i cristiani. A conferma di questo, nelle scritture che il Dio Trino ha fatto scrivere, tramite i suoi servi, troviamo almeno 7 volte che ci è un solo Dio. E poiché l'espressione «un solo Dio» è la più frequente usata nel linguaggio religioso, è utile considerarla volta per volta nel contesto in cui si presenta, per poi farne le debite considerazioni. 1. Troviamo la prima espressione nel Vangelo di Marco 12.2833. Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò: «Qual è il più importante di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta, Israele, il Signore, nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non quar è nessun altro comandamento maggiore di questi». Lo scriba gli disse: «Bene, maestro, tu hai detto secondo verità che vi è un solo Dio e che all'infuori di lui non ce n'è alcun altro, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, è molto più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Alla difficile domanda fatta dallo scriba, Gesù risponde citando la Torah, cioè i primi 5 libri della legge, confermando l'esistenza di un solo Signore, un solo Dio, e cioè la divinità alla quale credevano gli ebrei, il cui nome è Yahweh. Lo scriba prende atto della risposta e approva che vi è un solo Dio e nessun altro, all'infuori di questo. La puntualizzazione dello scriba stava a precisare che tutte le divinità degli altri popoli erano fasulle e che solo l'ente supremo adorato dagli ebrei era il vero Dio da venerare e servire. Gesù e il fariseo non hanno sostenuto che tutti i popoli avevano lo stesso Dio, ma che esisteva un solo Dio, e questo era il loro. 2. Troviamo la seconda espressione «ci è un solo Dio» nella lettera ai Romani 3.2531. Dio ha usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché ci è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi confermiamo la legge. L'Apostolo Paolo, nel corso di un discorso in merito alla giustificazione per fede, dichiara che ci è un solo Dio. L'intenzione di Paolo nell'uso di questa affermazione non è tesa a dichiarare che unica sia la divinità alla quale si ispirano le diverse religioni, ma che esiste un solo Dio il quale si mostra imparziale nei confronti di tutte le persone. Per quanto mi risulta, nessuna divinità religiosa rende giusto l'uomo mediante un atto di fede in Cristo, e questo dimostra che il Dio unico dei religiosi non è l'unico Dio dei cristiani. 3. La terza espressione «Quilin è un solo Dio» si trova nella prima lettera ai Corinzi, 8.46. Quanto dunque al mangiar carni sacrificate agli idoli, sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non è che un Dio solo, Poiché sebbene vi siano cosiddetti dei, sia in cielo sia in terra, come infatti ci sono molti dei e signori, tuttavia per noi Cicciomo è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose. E noi viviamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, e mediante il quale anche noi siamo. In questo brano l'Apostolo Paolo mette a confronto la fede ebraica e dei cristiani con le altre religioni, intendendo testimoniare che per ebrei e cristiani esiste un Dio solo cosa del resto, sostenuta anche oggi da qualsiasi religioso meno, però aggiunge che per Paolo si esprime in modo particolare nell'intenzione di distinguere bene il Dio dei cristiani dagli altri. I cristiani conoscono il Dio nel quale credono, il quale è una persona, il Padre di tutte le creature, poiché egli si è rivelato loro in un volto, quello del suo figliolo nostro Signore Gesù Cristo. Nessun'altra religione ha una simile fede oltre il cristianesimo. I religiosi, infatti, credono in un Dio impersonale, indefinibile e totalmente irraggiungibile per l'uomo, il quale, nei tempi passati, per poter avere un contatto o per poter dare un volto alla propria divinità, doveva crearselo con le proprie mani. E sebbene siano trascorsi millenni, alcuni continuano ancora questa pratica di statue e immagini, proprio a conferma di quanto asserito. 4. Una quarta espressione, Quesh è un solo Dio, è nella seconda lettera a Timoteo 2:1-6. Esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti ci è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. L'Apostolo Paolo ordina ai credenti di pregare per tutti gli uomini perché la volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, e questa verità consiste nel fatto che vi è un solo Dio e un solo mediatore tra questo Dio e gli uomini. Questa testimonianza mette a tacere una volta per sempre la convinzione dei religiosi che alla fine tutti i credenti pongono fede nello stesso Dio. Se infatti è solo uno il mediatore tra l'unico Dio Tino e gli uomini, a chi si rivolgono i musulmani tramite la mediazione di Maometto? E i cattolici romani a chi si rivolgono per mezzo della transazione di Maria e di tutti i santi? E gli ebrei in quale Dio credono, visto che sono sprovvisti di mediatori? Cattolici romani, musulmani, ebrei hanno forse un unico Dio in comune. Ma certo è che non si tratti dell'unico Dio delle scritture e dei cristiani. 5. Una quinta espressione, un solo Dio, la troviamo nella lettera agli Efesini, 4:37. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. 5. È un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data, secondo la misura del dono di Cristo. L'Apostolo Paolo sta presentando l'unicità della fede cristiana, cosa questa che all'inizio del XXI secolo è andata perduta. Egli certifica che vi è un solo Signore, cioè Gesù Cristo, che una sola è la fede e non esistono tante fedi diverse come oggi vediamo, un solo battesimo, cioè quello della nuova nascita. Sostiene inoltre che sussiste un solo Dio, cioè colui che è Padre di tutti. L'unico vero Dio è Padre di tutti, perché Egli è colui che ha creati tutti gli uomini, li ha mantenuti in vita, provvedendo ad ogni loro bisogno. Questa caratteristica potrebbe essere applicata ad ogni divinità, ma la fede nell'unico Dio contempla una sola espressione di fede e un solo Signore, cioè Gesù Cristo. Né ebrei, né musulmani, né cattolici romani hanno questa fede e neppure tanti di coloro che si professano protestanti o credenti evangelici. È vero che vi è un Dio solo, ma non tutti hanno fede nel solo Dio delle Scritture. Questa fede, l'unica vera, non può essere ecumenica. 6. Una sesta espressione, ci è un solo Dio, la troviamo nella lettera di Giacomo. 2.1.5.19. Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede, e io ho le opere, mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che Cicchè è un solo Dio, e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. La testimonianza di Giacomo ha una portata teologica tale che, inserita nel contesto del discorso interreligioso, ha il potere prorompente di una bomba atomica. Giacomo mette in evidenza che una fede senza un contenuto pratico non ha nessun valore, anche se questa fede crede che vi sia un solo Dio. Quello che scuote nel ragionamento di Giacomo è che anche i demoni credono che vi sia un solo Dio. Ma nonostante questo, è ovvio che non hanno alcuna speranza di salvezza o di beatitudine eterna. Questo mette in evidenza che, anche se fosse vero che alla fine tutti i religiosi credono allo stesso Dio, questo tipo di fede in merito alla salvezza eterna non serve a nulla, ma proprio a nulla. Non conviene credere allora al solo vero Dio, che può salvare chiunque ponga fede in Lui? 7. La settima espressione ci è un solo Dio la troviamo nella lettera ai Galati, 3.1.9.2.0. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni finché venisse la progenie, alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Ora, un mediatore non è mediatore di uno solo, Dio invece uno solo è. In questa proposizione Paolo non afferma esplicitamente che vi è un solo Dio, ma attesta che Dio è uno solo. Arriva a questo discorso dopo aver fatto presente che la promessa di una beatitudine eterna è stata fatta tramite un mediatore, e questo secondo le scritture è solo Gesù. Dato che il mediatore ha il compito di rappresentare alternativamente una parte presso un'altra, Paolo fa notare che per quello che riguarda Dio il mediatore, cioè Gesù Cristo, è uno solo perché, essendo sia uomo sia Dio, Cristo Gesù è stato il mediatore di se stesso. Infatti, rappresentando tutta l'umanità, Gesù, come uomo Dio, ha salvato l'umanità intera. Solo in questo modo si può dire che Dio ha salvato l'uomo. Per i cristiani Dio, quello trino, è uno solo, perché Gesù è Dio stesso. Non tutte le religioni credono a questo. Dopo queste spiegazioni in merito all'espressione vi è un solo Dio contenuta in sette diverse sezioni della parola di Dio, e considerato l'uso improprio di tale locuzione scaturito dall'opinione personale da essa suscitata, è possibile continuare a pensare che tutte le religioni professano lo stesso Dio? Forse per un religioso qualsiasi lo è ancora, ma per un cristiano Dio è uno solo, quello rivelato nelle scritture, il quale è un Dio trino, che può essere conosciuto, adorato e obbedito mediante un solo Signore, cioè Gesù Cristo, il Figlio, la sola persona sussistente nell'unica divinità, che può essere vista e conosciuta dall'uomo. Novembre 2006, Ellero.